Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti di nuovo in diretta con Focus Economia. In questi due giorni il bravissimo Simone Spezia mi ha più che egregiamente sostituito. Devo dire, ieri con il ministro Tremonti, con cui c'era stato anche un incontro telefonico per arrivare all'intervista di ieri, c'è un passaggio che magari dopo faremo riascoltare, perché insomma non è che proprio mi abbia fatto impazzire dare a un giornalista del militante solo perché l'ex ministro Tremonti insomma, non ha apprezzato la domanda. Insomma, uno viene in questo programma e si fa fare le domande. Comunque ne parliamo dopo. Intanto la borsa. Allora, oggi si è sfiorato di nuovo una giornata negativa, pesantemente negativa. Adesso siamo a meno 1,12%. In realtà Milano è arrivata a un certo momento vicina ai minimi dal 9 marzo 2009. E ricordate che il 9 marzo 2009 vi furono proprio i minimi come effetto del crack Lehman Brothers, quindi scoppio della crisi a ottobre 2008, e marzo 2009 fu uno dei punti più bassi dell'andamento azionario. In questo momento perde l'1,15% a 13.129 punti, Parigi meno 0,80, Francoforte meno 0,90, Londra meno 1 punto percentuale, gli Stati Uniti perdono lo 0,20%, l'euro è sempre ampiamente sotto quota 1,28 a 1,27,13. Chi si salva? A2A più 3,6, Tod's più 2,85, Fiat Industrial più 2,30, Salvatore Ferragamo più 1%, Diasorin più 1%, bene anche, vista la giornata, Snam mezzo punto percentuale, Pirelli sempre mezzo punto percentuale di rialzo. Chi non si salva invece? Beh, tutto il settore bancario. Monte dei Paschi, oltre ai casi suoi, meno 5,31%, ormai vale 20 centesimi di euro per azione. UniCredit meno 4,50, è tornata a 2,42 euro. Popolare di Milano meno 3,74%, Popolare Emilia Romagna meno 3%, UbiBanca meno 2,90%, Generali meno 2,70% come Mediolanum e Mediobanca. Il Banco Popolare perde il 2%. Segnaliamo tra chi cede anche ST Microelectronics il 4,90%. Di cosa ci occuperemo oggi? Ci occuperemo dei decreti che dovrebbero arrivare, ma stiamo aspettando, forse c'è un po' di stallo a favore delle imprese da un lato, dall'altro anche del tentativo di trovare una quadra, diciamo così, a livello europeo, perché ci sono varie dichiarazioni oggi sul tema, e del rischio spagnolo, perché partiremo subito dalla Spagna oggi. Prove tecniche di contagio? Speriamo di no, però quello che sta succedendo è che in Spagna c'è stata una vera e propria corsa a quello che è il terzo gruppo bancario spagnolo, Bankia. Sapete che il governo spagnolo ha deciso di fatto la nazionalizzazione di questo gruppo bancario. Secondo quanto risulta ai quotidiani spagnoli, negli ultimi giorni i correntisti, i clienti di Bankia avrebbero prelevato dalla banca oltre 1 miliardo di euro. Notizia del Mondo di oggi, il titolo è crollato dopo la notizia, ha perso il 28%. La banca spagnola ha fatto un appello, ha detto attenzione, i vostri risparmi sono al sicuro. Poi circa 20 minuti fa è arrivata una smentita anche dal governo spagnolo. Il sottosegretario dell'economia Jiménez La Torre ha smentito la fuga dai depositi, ma insomma questo la dice lunga sul tipo di tensione che si sta respirando in Spagna. Parleremo anche dei rischi per le imprese italiane. Oggi c'è la trimestrale di SACE, che è la società che in primo luogo assicura le imprese italiane contro i rischi di mancato pagamento, ma non solo. Ma è cambiata la mappa del rischio, grazie, si fa per dire, a questa crisi, perché sono a rischio paesi evoluti e paesi assolutamente occidentali come la Grecia, come la Spagna, e paradossalmente invece escono da certe zone del rischio o diventano più affidabili paesi più distanti ma in via di sviluppo. E di questo parleremo appunto con il numero uno della SACE, Alessandro Castellano. 349-238-6666 per i vostri sms. Subito le altre notizie in breve. E allora le notizie, le altre notizie di questa giornata, in una giornata in cui l'oro è a 1560 dollari l'oncia, il petrolio apre in rialzo a 93,73 dollari, comunque sempre sotto i 100 dollari. La crisi dal 2008, stando a quanto emerso dall'Organizzazione Mondiale del Lavoro, la crisi finanziaria ha bruciato 21 milioni di posti di lavoro nei paesi dei G20 da quando è iniziata, quindi dal 2008, 21 milioni e 300 mila per la precisione. Il Fondo Monetario Internazionale sostiene che la Banca Centrale Europea abbia ancora spazio per tagliare i tassi e poi precisa sempre il Fondo Monetario Internazionale che la prossima missione in Grecia arriverà solo dopo le elezioni greche. Intanto la Grecia ha un governo, è un governo provvisorio, un governo tecnico anche in Grecia, composto da 16 ministri, per lo più sono alti funzionari statali, docenti universitari, che avrà il compito di portare il paese alle nuove elezioni legislative che, come ricorderete, si terranno il prossimo 17 giugno. L'esecutivo ad interim è guidato da Panaitios Pikramenos, che ha 67 anni. E nessuno guadagnerà nei ministri. Nei 16 ministri del governo di transizione non saranno pagati per il loro mese di lavoro. È stato il neo primo ministro, appunto, Pikramenos ad informare i neo ministri e anche i deputati eletti alle ultime elezioni del 6 maggio, visto che torna alle elezioni il 17 giugno la Grecia, non riceveranno lo stipendio per quel mese e 10 giorni di incarico. Sulla Grecia oggi anche il nostro ministro allo sviluppo economico Corrado Passera, a margine del Wharton Forum, ha detto che l'Europa deve prendere in mano la situazione greca. La Grecia è un problema più tocca tutto il mondo, ma è più di responsabilità europea e quindi immagino che sarà uno dei temi sullo sfondo del G8, ma non direttamente lì la responsabilità per trovare una soluzione. Però l'Europa finalmente deve prendere veramente in mano la situazione e capire che il problema della Grecia è un problema gestibile ed è un problema dove l'Europa può veramente dare una soluzione definitiva. Da Camp David noi tutti ci aspettiamo un segnale forte ma concreto in termini di responsabilità e commitment, impegno dei grandi del mondo in termini di crescita. E qui l'Europa per ora ha più parlato che portato fatti e cose concrete. Eh sì, e io, c'è chi scrive, lei adesso ci farà di nuovo un attacco alla Germania. Non è un attacco alla Germania, faccio solo notare che salvare la Grecia, e lo ripeterò tutte le volte che serve, salvare la Grecia a marzo del 2010 sarebbe costato circa 130 miliardi, adesso nel frattempo il non salvarla, anche commissariandola, anche poi punendola, ma almeno dire una parola netta e chiara: nessun paese dell'euro può uscire dall'euro, verranno tutti salvati, aumentare il fondo di salvataggio. Ecco, non aver fatto questo ha significato sui mercati azionari 1.600 miliardi di svalutazione delle borse dell'area euro in questi due anni, ok? 130 miliardi averla salvata, cosa che non è stata fatta, 1.600 il prezzo che abbiamo pagato per non averla salvata. Fate un po' il conto e poi vediamo. C'è un paese però in Europa che si sta avvantaggiando bellamente, in maniera limpida, palese, da questa crisi, si chiama Germania. Allora, oggi la Germania ha collocato di nuovo dei Bund, dei BTP tedeschi a 10 anni, hanno toccato il minimo storico a 1,42%. La fuga dal rischio, cioè da Spagna, Italia e anche Portogallo e Grecia, chiaramente sta Irlanda, sta premiando la Germania, con la conseguenza, ecco perché dico che la Germania sta non solo non ha dovuto fare le manovre che hanno dovuto fare altri paesi, ma sta proprio godendo da questa crisi. Beh, la conseguenza è che a un'impresa tedesca andare in banca e trovare un finanziamento costa 4-5 punti percentuali in meno rispetto alla concorrente impresa italiana e anche quasi un paio di punti rispetto alla concorrente impresa francese e quasi 6 punti rispetto alla concorrente impresa spagnola. Quindi, cioè, immaginate cosa vuol dire per un'impresa che lavora con 3-4 punti percentuali di utile, se va bene, avere un prestito in banca all'1,5 o al 2 oppure avercelo al 7 e all'8 come da noi. E questa non è con la stessa valuta. Quant'è lo spread con i nostri BTP? A questo punto è arrivato fino a 449 punti base, quello con i bonus è arrivato a 490 punti base. In realtà il titolo di Stato che rende di meno al mondo, cioè quello considerato più sicuro, è quello svizzero, rende lo 0,6%, poi c'è l'ordo a 10 anni, poi c'è quello giapponese, lo 0,8%, Hong Kong l'1%, sempre l'ordo a 10 anni, rendimento, e poi quello danese all'1,3%, e infine la Germania con l'1,42% di rendimento lordo all'anno sul BTP tedesco a 10 anni. In netto rialzo, appunto, a dimostrazione di quello che ho appena detto, invece i rendimenti delle obbligazioni spagnole sono schizzate, infatti quelle a scadenza 2015-2016 collocate oggi al 4,37% contro il 2,90% di aprile, 1,5% in più tocca alla Spagna offrire per trovare finanziatori sul suo debito. Tra l'altro la tranche di aprile 2016 il tasso è al 5,1%. Questo vuol dire che poi le banche, quando devono prestare i soldi, fanno riferimento anche a questo, e vuol dire che un costo sostanzialmente per gli imprenditori spagnoli di gran lunga più alto rispetto a quelli tedeschi. Tant'è che oggi il premier britannico Cameron invita l'area euro, di cui lui non fa parte, a stabilizzarsi con un efficace firewall, quindi con delle misure di emergenza e di sostegno che siano efficaci, perché altrimenti i rischi vi saranno per tutti. Occorre porre fine, dice Cameron, ai dubbi sull'euro introducendo gli euro bond. Lui non ne fa parte dell'euro, però insomma ha una posizione più vicina a quella, diciamo, francese e forse italiana. E poi il ministro tedesco delle finanze Wolfgang Schäuble ha rivolto un appello all'Unione Europea affinché si doti di un presidente eletto. Altro grosso problema: l'Europa ha due grossi problemi, ha la banca centrale, l'area euro, che non funziona come tutte le banche centrali al mondo, cioè non può stampare moneta e non può garantire in ultima istanza per le banche che rappresenta, e poi ha il problema che non ha una rappresentanza politica, cioè non c'è un presidente dell'Unione Europea eletto. Lo Schäuble l'ha chiesto: l'Europa deve avere un volto e occorre che questo volto sia quello di un presidente eletto. Andiamo rapidi, il fronte italiano: potrebbero arrivare novità sull'aggio della riscossione, ora al 9% dovrebbe infatti scendere, ma anche sulla rateizzazione dei debiti fiscali e sulle ipoteche. I temi sarebbero stati affrontati, secondo quanto si apprende nell'incontro del premier Mario Monti con i vertici dell'amministrazione fiscale. I nostri GR avevano già ricordato e raccontato dell'incontro tra Mario Monti e Befera. Vi sono allo studio nuove norme sui fallimenti individuali, nuove strutture potrebbero occuparsi dei casi ad hoc, sostegno incondizionato da parte di Mario Monti a Equitalia, e poi Monti ha aggiunto: pagare le tasse è un dovere, poi studieremo come ridurle, ma intanto occorre pagarle. L'evasione, la lotta all'evasione, scusate, ci dà e ci ridà credibilità internazionale. E poi il ministro Passera, che ha detto, per quello che riguarda il rimborso alle imprese, i famosi crediti che le imprese vantano, 70 e passa miliardi, siamo molto vicini alla redazione dei crediti. Dei decreti, scusa. Tra l'altro, sempre per quello che riguarda l'Italia, oggi è uscito un report sull'età dei potenti italiani. Allora, è molto carino perché lo hanno fatto i giovani della Coldiretti. Noi siamo i più vecchi come potenti, cioè chi ha le leve del potere è in Italia, come età anagrafica, il più vecchio nell'Unione Europea. L'età media è di 59 anni. Il Presidente del Consiglio Mario Monti ha 69 anni, i ministri più giovani Balduzzi e Patroni Griffi hanno 57 anni, sono i più giovani. E ricordo che in Gran Bretagna David Cameron è arrivato a fare il Presidente del Consiglio, il Primo Ministro, a 43 anni, Tony Blair a 44, John Major a 47, Gordon Brown, che era il più vecchio, a poco più di 50. Da noi a 57 sei il più giovane ministro. Sentiamo Vittorio San Giorgio, delegato nazionale della Coldiretti Giovane Impresa, al microfono del nostro Simone Spezia. Il dato che viene fuori è che siamo ad una età media vicino ai 60 anni, la più alta tra i paesi europei. Questo diciamo che potrebbe essere sconfortante se lo interpretiamo nell'unico modo in cui lo vogliamo leggere noi, cioè ovvero non ci spaventa oppure non va letto in chiave negativa il fatto che l'età della classe dirigente è alta, il fatto è che questa classe dirigente si è un po' seduta e non sta provvedendo a quelle che sono le politiche e le riforme che servono ai giovani, e questa è la cosa che contestiamo e pertanto la leggiamo in maniera negativa. Per classe dirigente cosa intendete? Un po' tutto, manager, politici? Sì, il lavoro che è stato fatto prendendo in considerazione le organizzazioni di rappresentanza imprenditoriale, quelle sindacali, ma andando anche nelle istituzioni, nel governo, nel Parlamento, nel Senato, nelle università, è un dato che viene fuori prendendo in considerazione tutti i mondi che devono o dovrebbero contribuire a quella azione di rilancio dei giovani nel nostro paese. Una domanda invece che riguarda più specificatamente voi e il settore: avete realizzato un'indagine con SVG che riguarda in particolare i problemi delle imprese condotte, le imprese agricole condotte da giovani. Tra questi problemi emerge una difficoltà di accesso al credito maggiore rispetto alle imprese possedute da, chiamiamoli così, anziani, se così vogliamo dire. Questo è sicuramente uno dei dati che esce fuori e sul quale noi, come dire, ci eravamo già interrogati e sapevamo che il problema delle giovani imprese è questo e abbiamo dato già risposta, l'avevamo presentato l'anno scorso alla nostra assemblea del 17 maggio del 2011, quest'anno a distanza di un anno col progetto Giovani di Credit Agritalia siamo riusciti a dare risposta e cominciare ad arginare un po' a questo meccanismo della difficoltà di accesso al credito finanziando oltre 500 progetti imprenditoriali con un monte investimenti che supera i 100 milioni di euro. Ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Ah, la crisi. Eh sì, perché anche oggi abbiamo qualche notizia sulla crisi degli altri, non quella che viviamo noi. Se c'è la buona notizia che riparte Arena Ways, acquisita poche settimane fa da GoConcept, ricorderete quella rete ferroviaria privata che doveva fare concorrenza sulla Torino-Milano, soprattutto alle ferrovie dello Stato, c'è l'accordo con Trenitalia e in realtà questa volta a partire dalla seconda metà di giugno la società collegherà il nord-ovest con il centro e sud Italia con un servizio di treni notte ad altissima qualità che consentirà il trasporto di auto al seguito. È importantissimo questo perché proprio sulla soppressione dei treni notte si erano scagliate le ire nei confronti di Trenitalia e anche dei lavoratori dell'ex Wagon Lit, ricordate alcuni si arrampicarono su una gru. Ebbene, in questo modo verranno anche assunti 26 lavoratori della ex Wagon Lit e soprattutto ripristinati i treni a lunga percorrenza per il sud notturni con la possibilità di caricare sopra anche le auto. E questa è la buona notizia. Per una buona notizia che riguarda anche 26 lavoratori, invece c'è un'altra che veramente non so come prendere. La Sicilia, la regione Sicilia, che ci riempie ogni volta, da sola fa metà di questa rubrica, ha assunto 30 camminatori. Ossia, insomma, il welfare siciliano dà una speranza a tutti. Che cavolo è il camminatore? Adesso ve lo spiego. Un mese fa era stata deliberata l'assunzione di 55 addetti alla sorveglianza dei musei palermitani. Peccato che nei musei palermitani ci fossero già 1600 custodi. Adesso, come se non bastasse, la regione siciliana cerca per i suoi uffici 30 camminatori. Qual è il compito del camminatore? Potrei fare anche un test. Chissà chi indovina il compito del camminatore? Beh, è camminare. Ossia, il compito del camminatore è spostare le pratiche da un posto all'altro. Nel 2012 con internet non bastava la regione Friuli Venezia Giulia con gli avvistatori della neve, ormai mitici, devono spostare fisicamente i faldoni da un ufficio all'altro. Non hanno personale sufficiente, evidentemente, nella regione Sicilia, nonostante dentro la pubblica amministrazione siciliana lavorino 16.000 dipendenti, a cui si aggiungono 1.200 dirigenti. E oltre ai 30 camminatori, adesso si cercano anche 60 funzionari direttivi, 20 collaboratori, e poi anche altri casi particolari. Praticamente pensate che in Sicilia, nella regione, ci sono 8 dipendenti che si occupano di relazioni diplomatiche internazionali. Ma che cavolo deve fare nella regione di Sicilia? Boh. In 21 si applicano alla promozione dell'identità siciliana. Il capo del Dipartimento del Lavoro il capo del Dipartimento del Lavoro ha preso la sua funzione in maniera molto seria, perché lui dà lavoro a 32 collaboratori. L'ufficio di presidenza ha 157 chauffeur. Ma cosa? Ma io non lo so. E poi ci sono anche uffici con un solo dipendente. L'ufficio sismico regionale, perché giustamente la Sicilia non è regione sismica, quindi un solo dipendente. Il servizio liquidatori enti, un solo dipendente. Il servizio gestione interventi post diploma e università, che questo è veramente un mistero, sarà la sede della CIA, un dipendente. E poi il servizio isole minori dell'assessorato alla salute, un dipendente. Allora il nostro applauso anche oggi va alla regione Sicilia. Dalla Sicilia alla Spagna il passo è breve, anche se quanto stiamo raccontiamo delle regioni Sicilia, ma non solo, ricordo più la Grecia a mio avviso che la Spagna, dove l'amministrazione pubblica in realtà ha tutta una diversa dignità. Dicevo, oggi ci occupiamo di Spagna perché al di là che sono schizzati tutti i rendimenti delle obbligazioni spagnole, c'è stata questa denuncia di una corsa agli sportelli del gruppo Bankia. Il titolo ha perso quasi il 30%, poi ha dovuto smentire il governo spagnolo. Luca Veronese, buonasera. Buonasera, buonasera a tutti. Allora, ha smentito, non c'è stata nessuna corsa agli sportelli di Bankia? Allora, ha smentito il governo e poi ha smentito anche la stessa banca, dicendo che i risparmiatori, i correntisti possono stare tranquilli, che non c'è nessun problema sui depositi, che quindi insomma hanno cercato di calmare un po', di vedere di non diffondere panico ulteriore, ma la notizia di 1 miliardo di depositi ritirati nel giro di una settimana fa il paio con la caduta del titolo in borsa, che è clamorosa, insomma. Sì, clamorosa. Allora, la cosa giustamente che sottolineano alcuni ascoltatori, Luca, però, è insomma, di solito quando una banca viene nazionalizzata i risparmiatori sono più tranquilli, perché dici, invece che fallire, a parte il fatto che tu hai la copertura in Italia fino a 100.000 euro sul deposito, ma insomma, una volta che viene presa dallo Stato, un po' come capitò a Royal Bank of Scotland in Gran Bretagna, almeno sei sicura, perché lo Stato tecnicamente non potrebbe fallire, non dovrebbe poter fallire. E perché allora il panico? Dipende dalle motivazioni che stanno alla base della nazionalizzazione. In questo caso lo Stato, la Spagna, è entrata nel capitale di Bankia perché non c'erano alternative, ha provato a lungo anche a trovare un compratore o una società, un istituto di credito abbastanza grande da fondersi con banche senza avere problemi, ma non l'ha trovato, e poi non ha potuto fare altro che intervenire nel capitale praticamente dando degli aiuti di Stato e cercando di salvare quello che ancora c'è da salvare. Su questo, a tuo avviso, visto che tu appunto sei l'inviato del Sole 24 Ore in Spagna, ritieni più preoccupante l'effetto o rischio panico sul sistema bancario spagnolo, che sappiamo scricchiolare non tanto sui due colossi, no? Banco Bilbao Vizcaya e Santander, quanto sulle casse di risparmio regionali? Lì qualche problemuccio c'è per via del settore real estate, del settore del mattone, ma ritieni più preoccupante questo o come si stanno muovendo i titoli di Stato spagnoli? Beh, sicuramente il problema oggi della Spagna sono le banche. Le banche hanno tolto credibilità anche allo Stato, quindi anche possibilità di rifinanziarsi sul mercato del debito, come ha detto ieri il Premier Rajoy, e quindi le banche sono davvero il problema in questo momento. La stessa Bankia, come ricordavi tu, deriva da un problema delle casse di risparmio e dall'esposizione sull'immobiliare, che ha avuto un crollo già ormai 3 o 4 anni fa. E Bankia nasce dalla fusione di 7 casse di risparmio locali regionali. Nel tentativo si pensava di risolvere questo, appunto, questa eccessiva esposizione sul mattone, che invece ha finito per allargare il problema ad altre entità e a tutto il sistema finanziario. In questo momento l'insieme delle banche spagnole ha un'esposizione problematica sull'immobiliare che supera i 300 miliardi di euro, che vuol dire un terzo del PIL spagnolo, con riserve che ancora sembrano non garantire la necessaria solidità al sistema. Quindi direi che il contagio interno alla Spagna in questo momento è dalle banche alla credibilità dello Stato più che in senso inverso. Ecco, questo è un punto importante, cioè è il sistema bancario spagnolo che sta minando la credibilità dello Stato spagnolo sui mercati, tant'è che oggi Rajoy, come tu ricordavi, ha detto: attenzione, se va avanti così noi qua non riusciamo più a rifinanziarci. Fammi trovare la dichiarazione esatta adesso, eccola qua: rischiamo di non avere più accesso ai mercati, quasi l'opposto rispetto all'Italia, cioè da noi è il debito dello Stato che pesa molto sul sistema economico e finanziario italiano, non tanto le singole banche. Sì, da molti punti di vista la Spagna si è ben comportata negli ultimi mesi, sia con il nuovo governo conservatore, ma anche nelle fasi precedenti con Zapatero, nel senso che ha fatto le riforme che venivano chieste, il risanamento, pur con notevoli problemi, è continuato, anche se appunto il deficit non è stato raggiunto o limitato nei termini previsti con l'Unione Europea. Certo è appunto che in Spagna non hanno neanche un problema di debito che dovrebbe schizzare quest'anno, ma all'80% del prodotto interno lordo, quindi con dimensioni davvero minime rispetto a quelle anche della media europea. Quindi la Spagna da molti punti di vista è messa bene. In Spagna c'è stato il crollo del settore immobiliare, che del resto è con le costruzioni, i cantieri che possiamo tranquillamente vedere facendo le coste della Spagna e che poi adesso sono rimasti vuoti o quando non finiti nelle alberghi, casermoni e vari villaggi nel deserto, hanno costituito la locomotiva, il traino di tutta una crescita decennale del paese, una crescita leggera, magari spregiudicata, ma che ha dato alla Spagna un notevole sviluppo economico. Allora, tra l'altro oggi, stando a quello che si è capito, l'agenzia di rating Moody's dovrebbe tagliare il voto alle banche spagnole. Abbiamo anche una dichiarazione del ministro Passa sull'agenzia di rating, però non adesso. Intanto ringrazio, cioè non la facciamo ascoltare adesso, ringrazio Luca Veronese, meteo, pubblicità, poi la borsa che vi anticipo ha chiuso con un meno 1,46% a Milano, meno 1,20% a Parigi e Francoforte. 349-238-6666 per i vostri sms. Andiamo avanti nel raccontare come ogni giorno la giornata economico-finanziaria. Vedo alcuni messaggi, vabbè. Qualcuno un po' nervoso, ma questo ci sta, visto il periodo. Qualcun altro che dice che io sono ossessionato dalla Germania. No, sono ossessionato da come l'Europa si sta infilando in un cul-de-sac terrificante per colpa della caparbietà tedesca. La Germania non ha nessuna responsabilità su questa crisi, ci mancherebbe, né sui debiti italiani, spagnoli, o meglio greci, irlandesi e portoghesi, ma ha una grossissima responsabilità nel non mettere la parola fine rassicurando i mercati una volta per tutte. Quanto alla Sicilia, i 30 camminatori che stanno per essere assunti dalla regione siciliana, confermo tutto, sono 30 camminatori, si chiamano camminatori, sono quelli che devono portare i faldoni da un ufficio all'altro. Immagino, chissà le selezioni dei camminatori come arrivano, non so quanto fai di corsa, che resistenza hai, perché uno deve essere anche fisicamente pronto. Vabbè, poi ci lamentiamo però che i tedeschi non si fidano di noi quando io leggo certe notizie. Ragazzi, ci facciamo del male da soli anche noi. La borsa, meno 1,46% Milano, meno 1,20 Parigi, meno 1,20 anche Francoforte, Londra meno 1%, l'America meno 0,50. L'euro è andato anche a 1,26 sul dollaro, ma la cosa mi lascia del tutto indifferente, anzi la trovo positiva. Non capisco perché noi si debba vivere nell'area con la moneta unica più forte a 1,30 sul dollaro, con l'inflazione più bassa, il 3%, tutto per far contenti i tedeschi, e imbarchiamo un po' di inflazione e svalutiamo un po' questo euro, così magari torniamo a esportare da un lato e dall'altro riduciamo il valore reale del debito pubblico. L'America ha un deficit che viaggia intorno all'8%, un'inflazione al 7%, la Gran Bretagna ha un'inflazione oltre il 5%, non si capisce perché noi dobbiamo essere i più virtuosi, moriremo ma virtuosi. La borsa con Livia Zancaner. Buonasera Livia. Buonasera. Mi piaceva un altro stacchetto di campana, vedo il tecnico che ride. Allora Livia, al di là del morire ma virtuosi, oggi di nuovo sotto pressione tutte le banche, effetto Spagna ma non solo, anche Moody's. Sì, allora le banche oggi hanno perso oltre il 2%, in Europa sono state penalizzate, ricordiamo, dalle tensioni ancora sul mercato dei titoli di Stato, dall'andamento della sa spagnola che ha mostrato rendimenti in forte rialzo e anche, come dicevi tu, dalle voci sul taglio del rating su 21 banche spagnole da parte di Moody's, che qualche giorno fa aveva invece, come sappiamo, bocciato 26 banche italiane. Vi è inoltre il timore di una corsa agli sportelli, secondo il Mondo, infatti oggi nell'ultima settimana i clienti avrebbero prelevato oltre 1 miliardo di euro da banchi, a voci che sono state però... Sì, che abbiamo appena commentato, si smentite poi dal sottosegretario dell'economia spagnolo. Sì, infatti, a Piazza Affari le peggiori sono state MPS, che ha perso il 5,27%, sì, e Banca E. Unicredit, che ha perso il 4,65%. Sì, citiamo anche la Popolare di Milano -3,66%, UbiBank -3,30%, Popolare Emilia Romagna -3,20%, Generali -3%, Mediobanca -2,70%, Banco Popolare -2,40%. Mi sono perso Intesa San Paolo, eccola qua, -0,55% per Intesa San Paolo. Dopo il traffico commentiamo gli altri titoli. Enel, ma da un lato, A2A invece dall'altro, forte anche oggi, e Fiat Industrial. E poi c'è il caso di Iren, molto male dopo la trimestrale diffusa lunedì ai mercati chiusi. Alcuni ci hanno chiesto cosa sta capitando. Insomma, la trimestrale, per usare un eufemismo, non è piaciuta. Oggi il titolo ha perso un altro 14,5%. Allora Livia, per quello che riguarda i titoli che oggi bene si sono mossi, A2A e tra l'altro in una giornata in cui non è che l'energia abbia brillato, però A2A ha guadagnato il 2,85%, mentre Eni ha perso lo 0,81%, vabbè, Saipem -0,85%, e poi c'è il caso di Enel Green Power -1,80% e Enel -1,90%. Allora A2A e Enel, i due estremi. Sì, allora A2A è tornata a correre dopo la battuta d'arresto durata 2 settimane. Ricordiamo che il titolo la scorsa settimana aveva guadagnato il 23,8% circa grazie a una trimestrale sopra le attese e la revisione al rialzo delle previsioni, soprattutto sul margine operativo lordo, quindi oggi diciamo che ha ripreso il rally. Per quanto riguarda Enel è stata debole, ha perso in borsa l'1,87%, ha risentito del declassamento da parte dell'agenzia di rating Moody's. Le motivazioni di Moody's sono legate soprattutto alle deboli condizioni dei mercati principali di Enel, ovvero Italia e Spagna, che continuano a mettere sotto pressione gli utili, oltre al difficile contesto regolamentare di business sia in Italia sia in Spagna. Allora, bene anche tutto il settore del lusso, si conferma, Tod's +3,35%, ma anche Ferragamo +1%, non ho visto Cucinelli oggi, ma adesso ve lo do, magari il lusso a partire da Tod's, Livia. Sì, allora diciamo che il Tod's e Ferragamo, quindi le big del settore del lusso, hanno beneficiato del buon andamento del settore in Europa e la notizia in realtà di oggi riguarda una società a più piccola capitalizzazione che è Yux, che ha guadagnato oltre l'11% in scia alle voci di un accordo con il colosso francese PPR, che ha guadagnato terreno in borsa a Parigi. Secondo Pinot, tutti, quindi il gruppo di Pinot. Pinot, sì, mm-hmm. Secondo indiscrezione tutti i brand del lusso, appunto del gruppo che fa capo a Pinot, saranno venduti tramite la piattaforma digitale, anche se Yux ha poi specificato che nessun accordo è stato ancora siglato. Tra l'altro anche Brunello Cucinelli oggi ha fatto un +1,60%. Andiamo su Iren, anzi chiudiamo con Fiat Industrial, che bene si è mossa, +1,90%, e poi andiamo su Iren. Sì, allora Fiat Industrial ha beneficiato dei conti positivi annunciati ieri dalla concorrente americana di Iren & Company. Ricordiamo che Fiat Industrial controlla il gruppo CNH. Ricordiamo anche che per effetto della conversione lunedì prossimo in borsa rimarranno solo le azioni ordinarie sia Fiat Industrial, mentre scompariranno le risparmio e le privilegiate. Per quanto riguarda invece Iren, la società da lunedì ha perso il 35,6% dopo la trimestrale diffusa a mercati chiusi. La trimestrale ha registrato un calo degli utili a 55 milioni da 83,7 milioni, un calo del MOL, quindi del margine operativo lordo, e soprattutto un aumento del debito a 2,89 miliardi di euro. Allora, per quello che riguarda Iren invece, allora trimestrale abbiamo detto, il titolo ha perso il 14,45%. Come dicevo, appunto, si tratta di tutto sul dato della trimestrale, no, perché mi chiedono nel frattempo gli ascoltatori di dare l'ultimo, stavo cercando l'ultimo prezzo, è 32, eccolo qua, 32 centesimi di euro, male anche Movimax meno 15 e la Roma Calcio meno 11,86%. Bene invece Fondiaria Sai, di cui adesso parliamo al volo, più 11,50%, Iux più 11,67%. Iux, tra l'altro, appunto, anche qui lo citavi, voce di un accordo con la francese PPR, immagino sia solo questo. Digital Brothers più 5,15%. Fondiaria. Sì, allora Fondiaria ha registrato una delle migliori performance. Sul listino milanese ricordiamo che oggi vi è in calendario il consiglio di amministrazione, diciamo decisivo per l'integrazione con Unipol, e quindi per valutare i vari i concambi potenziali dell'operazione, quindi bisognerà vedere se verrà trovato un accordo o meno. Ancora vi do altri, visto che oggi siete affamati di titoli, volete sapere cosa ha fatto Finmeccanica meno 2,40%, Fiat Auto, avete ragione, non l'ho detto, meno 2,70%, Atlantia meno 2,60%, Euro a quota 1,2704. Sui rating di cui tu parlavi, Livia, ossia il timore dell'abbassamento di rating non solo in Italia ma anche in Spagna, oggi è intervenuto il ministro Passera. Rating sono i voti che alcune agenzie, tre al mondo, danno al debito o degli stati sovrani o anche di singoli soggetti privati. Certamente le agenzie di rating sono state nella scorsa crisi lente nel capire quello che succedeva e quindi hanno favorito l'esplodere della crisi, in certo senso, non avendola anticipata. Adesso in molti casi sono talmente proattive e portano a enfatizzare talmente fortemente talune difficoltà che possono addirittura essere causa di aumento delle difficoltà. Così il ministro Corrado Passera. Livia Zancanelli, tu vai a ballare? Livia mi ha risposto di sì. Sapete perché c'è Donna Summer? Ogni tanto anche noi respiriamo, ragazzi, in queste giornate, perché purtroppo è scomparsa Donna Summer. La musica che siete sotto, è pochi istanti fa è morta la cantante Donna Summer, aveva 63 anni. Allora, se il tecnico me la lascia sotto, io racconto anche due o tre cose serie, serissime, sui crediti della pubblica amministrazione, perché la riunione tecnica del Ministero dell'Economia non ha partorito nulla da quello che perlomeno è arrivato fino adesso. Il ministro Passera però ha garantito che si è molto vicini alla redazione dei decreti relativi. Ci stiamo lavorando, ha continuato Passera, in questi giorni si completeranno i decreti che renderanno possibile rendere liquidi la parte rilevante dei crediti scaduti nella piccola amministrazione. Hot stuff, appunto. Mi fate notare che non abbiamo dato l'aggiornamento di Wall Street, lo do subito, meno 0,75% in questo momento la borsa americana. Volete sapere anche dell'oro e del petrolio? Li abbiamo dati in apertura, va bene, ma volentieri li ridò. Sono tutti e due sotto i record, per fortuna, nel caso soprattutto del petrolio. Il petrolio viaggia a $93,7 al barile a New York, l'oro sta a $1,560 l'oncia. Abbiamo aperto con la Spagna perché oggi le tensioni arrivano da lì, non solo il panico che si è scatenato su Bankia quindi sulla banca che lo Stato nazionalizzerà, e tra l'altro con un crollo in borsa del 28% dopo che il quotidiano Il Mondo ha scritto che sostanzialmente c'era stata una corsa agli sportelli di banchi a ritirare i soldi dai conti correnti, di un miliardo di euro già sarebbero stati ritirati. Ha smentito il sottosegretario all'economia spagnolo il fatto che vi sia stata una corsa allo sportello, ma insomma questo la dice lunga, visto che oggi il problema è la Spagna, ma non è solo la Spagna, perché stando a quanto anche in questo caso riporta il quotidiano, però questa volta portoghese, il Diario, l'Unione Europea, la Banca Centrale Europea, il Fondo Monetario Internazionale, la cosiddetta Troica, insomma, starebbero per mettere appunto un piano di emergenza per proteggere il Portogallo nel caso in cui la Grecia dovesse uscire dall'euro, e questo è il famoso rischio effetto domino o effetto contagio. Questo a dimostrare che ormai il rischio non è più quello di una volta, potremmo dire con una battuta, non esiste un investimento privo di rischio, ma soprattutto la mappa del rischio è una mappa che si è completamente ridisegnata negli ultimi due anni, non solo dal 2008 in poi, ma proprio negli ultimi due anni, da quando è partito in sostanza l'attacco un anno e mezzo fa ai debiti sovrani dell'area euro. 349-238-6666 per i vostri sms. Allora ragioniamo sul rischio che corrono le imprese quando vanno sui mercati esteri. Si è completamente ridefinita la mappa del rischio, anche perché il rischio si sta spostando sui mercati più maturi. Appunto la Grecia era un mercato maturo, era un mercato occidentale. La ridefinizione della mappa del rischio l'ha fatta in maniera molto efficace, secondo me, la SACE. Cos'è la SACE? Beh, la SACE è la società che è il gruppo assicurativo finanziario che è al 100% controllato dal Tesoro e si occupa della gestione del credito. Deve assicurare il credito delle imprese italiane quando vanno all'estero, ma offre anche assistenza per la protezione degli investimenti, le cauzioni, le garanzie finanziarie su operazioni commerciali e finanziarie. Opera in 180 paesi, lì diciamo offre coperture. Ammonta a 33 miliardi e mezzo di euro il portafoglio di operazioni assicurate. Per la SACE, tra l'altro, ha nel 2011 ha avuto un utile netto di 184 milioni e un dividendo di 160 milioni, cioè di questi 184, 160 sono andati come dividendo al Tesoro. E siamo in collegamento col numero uno della SACE, l'amministratore delegato Alessandro Castellano. Buonasera. Buonasera. Voi oggi avete anche diffuso i conti, no? Sul trimestre, primo trimestre. Ma un trimestre che per noi è incoraggiante, come lei sa, la destinazione tipica dei nostri clienti e soprattutto su mercati emergenti, i mercati che vanno meglio, per cui noi registriamo un incremento dell'8% degli nostri utili ed in pratica abbiamo quasi, però, che è la notizia forse più interessante per lei, raddoppiato il numero di operazioni in termini di volume, che passano trimestre su trimestre da 639 milioni a 1 miliardo e 600 milioni. Ecco, questo è molto importante, vuol dire che state assicurando il doppio in valore di imprese italiane all'estero. Domanda, poi arriviamo anche alla mappa, perché mi interessa molto la mappa, che tra l'altro solo è pubblicato ieri, se non ricordo male, sul giornale. Ma voi assicurate, le dico già la critica che mi sta arrivando gli sms, assicurate i grandi gruppi o anche i piccoli imprenditori? Guardi, noi assicuriamo, in questo momento abbiamo esposizione su 250.000 clienti e la nostra esposizione media è di 100.000 euro. Naturalmente all'interno di questi 250.000 clienti ci sono anche clienti grandi. La mappa del rischio, allora, periodo 2007-2011, il rischio di mancato pagamento, che è il rischio che più temono gli imprenditori all'estero, soprattutto quando vanno in mercati distanti, anche meno conosciuti. In realtà qua il rischio di mancato pagamento non è più per i mercati esotici, ma è per i mercati di casa nostra, se ho ben capito la ridefinizione. I picchi li abbiamo avuti in Grecia, Irlanda, Islanda e anche alcuni paesi dell'est Europa e della Russia. diciamo che è ovvio che i mercati che stanno soffrendo di più in questo momento sono i mercati, diciamo, quelli sviluppati. Devo però dire che la gestione del rischio intesa come modalità per l'azienda di poter esportare di più nei mercati è quella di una gestione del rischio, non quella di cercare di curare le cose che si pensa che non vadano bene. Dov'è che invece il rischio è un po' diminuito in questa rimappatura appunto del rischio sui mercati? Ma i rischi secondo noi sono diminuiti e continuano a diminuire in mercati che sono quelli che conosciamo. Noi abbiamo visto un miglioramento significativo in questo primo trimestre in Russia, Turchia, Brasile, India, diciamo tutti i paesi che stanno continuando a dare segnali di portare avanti crescite elevate. Ecco, voi nella vostra mappatura dividete i rischi tra rischio di mancato pagamento, che è quello che abbiamo appena ricordato, rischio di instabilità normativa, quindi non so, il caso argentino, ne sanno qualcosa gli spagnoli, c'è stato un esproprio vero e proprio da parte dello Stato argentino nei confronti della compagnia energetica controllata dalla spagnola Repsol, e poi c'è il rischio di violenza politica. Dopo il traffico vorrei sapere come cambia la mappa su questi ultimi due rischi, quindi instabilità normativa da un lato e violenza politica dall'altro. Dottor Castellano, è arrivata anche la notizia che i CDS sulla Spagna, cioè i credit default swap sulla Spagna, il premio che si paga sulla polizza per assicurarsi contro il rischio crack spagnolo, ebbene questo premio è schizzato ai massimi da sempre, anche peggiore del 2009, a 553 punti. Ahimè, detto questo, veniamo agli altri due rischi. Instabilità normativa, come si è mosso in questo quinquennio? Ma questo quinquennio, di nuovo, dipende dai settori ed in pratica coloro che operano in settori regolati sono quelli che sono più a rischio per quelle che sono le possibilità che governi che politicamente deboli rivedano le tariffe. E infatti ho visto che voi sostanzialmente fornivate una mappa in cui i rischi di espropri, di violazioni di contratto sono diminuiti in molti paesi dell'Africa e dell'Africa subsahariana, dell'Europa emergente e della Russia, però nei paesi avanzati stranamente sono leggermente aumentati. Il rischio di violenza politica dopo la sorpresa, tra virgolette, dell'anno scorso di quello che è successo in Nord Africa, che ha coinvolto moltissime imprese italiane, tra l'altro proprio sul caso della Libia ci sono imprese che aspettano ancora di sapere come andrà l'accordo tra il governo italiano e il governo libico, aspettano di essere pagate, ci sono 800 milioni di euro che vantano molte imprese italiane, speriamo che arrivi un accordo su questo. Dicevo, instabilità politica. Devo confermarle che noi continuiamo a vederla, ancorché il caso che lei ha appena citato dell'Argentina e se potrebbe dire del Venezuela sono casi abbastanza isolati. Quello che noi abbiamo rilevato, ma lo rileviamo come una situazione di debolezza delle imprese italiane, che anche in Libia la quantità di assicurazione che noi avevamo con i nostri clienti non era sicuramente a livello che probabilmente poteva essere, per cui è probabile che noi ne siamo usciti bene e siamo stati fortunati, ma è anche possibile che le aziende italiane si sono assicurate. Per concludere, dottor Castellano, com'è la nuova classifica del rischio per paese? Voi avete sostituito il singolo rating, il singolo voto sul rischio paese con 8 voti, alcuni già li citavo: rischio sovrano, bancario, grandi imprese, PMI. Se ce lo può raccontare? Ma diciamo che i rischi nel nuovo mondo sono anche rischi che devono essere inquadrati nella loro fattispecie, cioè chiaramente il rischio bancario, quando la controparte è bancaria per cui c'è una lettera di credito, e questo naturalmente è un tipo di rischio, il rischio a cui lei accennava che è un rischio sovrano, per cui nel caso che ci siano operazioni con tariffe, operazioni che vengono garantite da, diciamo, enti pubblici o quasi pubblici, nel caso delle municipalità, che è un rischio nuovo, e poi invece il caso rischio PMI, che è un rischio direi ben definito, che riguarda aziende che hanno, noi identifichiamo come rischio corpo, la loro capacità o incapacità a seconda. La stiamo un po' perdendo, vediamo se riesco a ripristinare il collegamento. Mi sente? Sì, la sento. Ecco, no, abbiamo perso l'ultimo pezzetto, mi scusi. Che per quello che riguarda le piccole e medie aziende è chiaramente un rischio che abbiamo individuato, essendo l'azienda di dimensioni piccole dobbiamo fare una valutazione sulla capacità di questa azienda di poter poi ripagare quanto comprato o quanto investito da parte delle aziende italiane. Un'ultima domanda, Castellano, visto che poi sono peggiorate però le condizioni purtroppo anche delle nostre imprese, a cui le banche concedono credito sempre con maggior difficoltà se non proprio glielo negano, E lo Stato paga in ritardo alcune 70 miliardi di euro almeno di ritardo della pubblica amministrazione. Lo Stato vuol dire anche le regioni. Voi ed Equitalia, insomma, sappiamo come si muove, poi adesso ne parleremo. Voi avete, quanto è aumentata il vostro no, il diniego alla richiesta di una copertura della SACE? Ma guardi, noi operiamo con un modello di business che deve naturalmente essere sostenibile, però l'effetto, chiamiamolo prociclico, cioè che in pratica sta inducendo per una serie di questioni regolamentari le banche ad avere più difficoltà ad erogare credito, noi stiamo cercando di farci carico di naturalmente farlo, cioè fare questo credito. A testimonianza c'è il diciamo doppio o il 50% in più di crediti che abbiamo assicurato nel primo trimestre di quest'anno. C'è un'ultima domanda che ho per lei, tanto gliela faccio sempre, ma insomma, è giusto che la SACE, che è al 100% del Tesoro e quindi dello Stato e che ha questo ruolo fondamentale di copertura sui rischi assicurativi, faccia un utile? Voi avete fatto 184 milioni di euro di utile. Io le ho già risposto molto su questa operazione. Negli anni, direi negli ultimi 20 anni, il nostro pagamento, cioè il rischio privato, è quello che noi assicuriamo dell'80%. Essendo transazioni tra private, io credo che il modello del business debba essere sostenibile e pertanto il cittadino non debba avere oneri negativi qualora ci siano degli errori di sottoscrizione del rischio da parte nostra e da parte dell'azienda che naturalmente ci richiede questo servizio. Per cui direi che sotto questo punto di vista e sotto il punto di vista anche delle condizioni generali oggi della finanza pubblica, io mi auguro che l'azienda possa continuare ad avere bilanci inutili, perché è solo con un'azienda forte che riusciamo a continuare a sostenere le nostre aziende. Ma lei si attende un peggioramento della situazione? Me lo dica, tanto non ci sente nessuno, Castellano, ma insomma un peggioramento o no? Mi attendo un peggioramento sicuramente, cioè io mi attendo un peggioramento perché noi abbiamo sinistri che hanno sempre un differimento dal momento in cui la crisi avviene, e siccome io ritengo che nei beni di consumo questo problema già sia presente, io mi aspetto terzo e quarto trimestre di quest'anno una sinistrosità in aumento. Grazie all'amministratore delegato del gruppo SACE, Alessandro Castellano. Grazie a lei, buona serata. Sì, continuiamo a ricordare Donna Summer, dai, ogni tanto anche noi è l'unica Summer bella che avevamo in questo periodo, quello che vediamo sui mercati. No, c'è chi scrive: oggi Barisoni è prezzolato dallo Stato. Non ho capito perché, ma comunque niente questa accusa rispetto a quella che ieri si è beccato il bravissimo Simone Spezia, che conduceva Focus Economia, come molti di voi hanno ascoltato e sentito ieri, per un'intervista che avevamo concordato con il ministro Tremonti in occasione dell'Aspen per parlare dello scenario europeo. Tremonti sta giustamente anche promuovendo il suo libro, un libro tra virgolette, se mi passa l'ex ministro la definizione, quasi no global, torna su temi che già aveva toccato, su cui già era intervenuto, tutto bene. È chiaro che avendo fatto il ministro dell'economia e delle finanze fino a novembre, il più potente ministro del governo Berlusconi, uno dei soggetti su cui si erano create le maggiori tensioni proprio col Presidente del Consiglio, sembrava normale fargli una domanda banalissima quando Tremonti critica molto il governo Monti per l'alta imposizione fiscale, le alte tasse. Simone Spezia gli ha fatto la domanda più ovvia che un giornalista e forse anche un normale cittadino avrebbe dovuto fare. Sentiamo anche però la risposta. Perché i tagli alle tasse e alla spesa non li avete fatti voi quando eravate al governo? Ma vedo che lei sta facendo domande militanti, glielo spiego. No, guardi, non è nessuna domanda militante, ci arrivano tra l'altro molte domande dagli ascoltatori. Vede, in questo senso, e sento anche il dovere di riferirle. Vede, non c'è nessuna militanza, guardi. Professor Tremonti, ma che è sta cosa della militanza? Cioè lei viene in trasmissione, immaginerà di non fare un monologo, no? Le faranno delle domande. Cos'è il giornalismo militante? Il giornalismo militante è chi ha sempre tessuto le lodi in maniera sbagliata. Tra l'altro, in questo programma, voglio dire, l'abbiamo riconosciuto la tenuta dei conti pubblici per anni, abbiamo fatto passare anche poi, se no, le facciamo riascoltare alcune definizioni che si era oltre la crisi dette a fine 2009. Perché non le avete abbassate voi le tasse? E perché da del militante a un collega che fa banalmente una domanda normalissima, perché non l'avete fatto voi? Se no, si fanno i monologhi, si scrivono i libri, ma è inutile fare le interviste, perché con Tremonti questo problema c'è ogni volta, diciamolo, no? Ogni volta che c'è un'intervista il ministro o l'ex ministro si irrita. Allora, o non facciamo più le interviste, o lei accetta che in un paese democratico il giornalista faccia domande che non sono né militanti, né a favore, né da Zerbino, sono domande. Detto questo, occupiamoci di cose serie, ma ce l'avevo qua da ieri sta cosa. E poi se il ministro Tremonti vuole venire a rispondermi, venga pure, io non sono un giornalista militante, sono un giornalista provocante. Torniamo su un tema che non stiamo abbandonando e che non è nato adesso, e mi riferisco all'iniziativa che assieme a Oscar Giannino e tutta la radio abbiamo lanciato, l'iniziativa Disperati Mai. Continuate a scrivere all'indirizzo disperatimai@radio24.it. Piacere, Luigi delle Bicocche, sotto il sole faccio il muratore, mi spacco le nocche. Sono un eroe, perché lotto tutte le ore, sono un eroe, perché combatto per la pensione, sono un eroe, perché proteggo i miei cari dalle mani dei sicari, dei cravattari, sono un eroe, perché sopravvivo al mestiere, sono un eroe, straordinario tutte le sere, sono un eroe, e te lo faccio vedere, ti mostrerò cosa so fare col mio superpotere, sono un eroe. Buongiorno, mi chiamo Paolo e da subito vi ringrazio. Io non sono un imprenditore, ma sono un impiegato di un'impresa dell'edilizia con una storia alle spalle di 25 anni, un'impresa sana che mi ha sempre stupito per come tratti i propri dipendenti, accolti sempre come dei figli o dei fratelli. Adesso l'impresa è in crisi, i miei titolari hanno un volto mai visto, oscuri, hanno la faccia di quelli che ogni volta che ti vedono vogliono chiederti scusa. Scusa perché non riescono a pagarti lo stipendio. Si sono dissanguati per onorare debiti nei confronti di tutti, ma purtroppo la crisi morde e fa male. Fa male sapere che si vantano crediti per oltre 800.000 euro e nessuno sa dirti quando saranno evasi i crediti verso la pubblica amministrazione. Fa male perché magari quando riesci a recuperare qualche soldo vedi che vengono risucchiati in un attimo dalla banca. Fa male vedere tutta la burocrazia che sembra fatta apposta per darti il colpo di grazia. Fa male vedere politici che dopo aver governato per 30 anni vanno ancora in TV a dare ricette o fantomatiche soluzioni a quanto sta succedendo. È tutto molto triste. La sera a casa cerco di sorridere e far finta di niente con mia figlia, ma la malinconia traspare e si accentua quando vedi che i tuoi figli se ne accorgono. Il giorno che ritorneremo a sorridere penseremo a questo brutto periodo che magari ci avrà reso più forti perché sapremo che l'abbiamo superata grazie a noi stessi e non dai tanti millantatori che si professano salvatori. Visto che oggi Monti giustamente ha dato solidarietà a Equitalia a Befra, consiglio anche questa lettera. Giusta la solidarietà a Equitalia, ma giusto anche che gli 800.000 euro vengano pagati. 800.000 euro. Buona serata, ci sentiamo domani. Radio 24. La passione si sente.